Cari fratelli e sorelle, fermeremo oggi la nostra attenzione su San Girolamo, un padre della Chiesa che ha posto al centro della sua vita la Bibbia, l'ha tradotta nella lingua latina, l'ha commentata nelle sue opere e soprattutto si è impegnato a viverla concretamente nella sua lunga esistenza terrena, nonostante il ben noto carattere difficile e focoso ricevuto dalla natura. Girolamo nacque a Stridone verso il 347 da una famiglia cristiana che gli assicurò un'accurata formazione, inviandolo anche a Roma a perfezionare i suoi studi. Girolamo, giovane, sentì l'attrattiva della vita mondana, ma prevalse in lui il desiderio e l'interesse per la religione cristiana. Ricevuto il battesimo verso il 366, si orientò alla vita ascetica e, recatosi ad Aquileia, si inserì in un gruppo di ferventi cristiani, da lui definito quasi un coro di beati, riunito attorno al vescovo Valeriano. Partì poi per l'Oriente e visse da eremita nel deserto di Calcide al sud di Aleppo, dedicandosi seriamente agli studi. Perfezionò la sua conoscenza del greco, iniziò lo studio dell'ebraico, trascrisse codice e opere patristiche. La meditazione, la solitudine, il contatto con la parola di Dio fecero maturare la sua sensibilità cristiana. Sentì più pungente il peso dei trascorsi giovanili e avvertì vivamente il contrasto tra mentalità pagana e vita cristiana. Un contrasto rese celebre dalla drammatica e vivace visione della quale lui racconta, una visione in cui gli sembrò di essere flagellato al cospetto di Dio perché sarebbe più ciceroniano e non cristiano. Nel 382 si trasferì a Roma. Qui il Papa Damaso, conoscendo la sua fama di asceta e la sua competenza di studioso, lo assunse come segretario e consigliere. Lo incoraggiò a intraprendere una nuova traduzione latina dei testi biblici per motivi pastorali e culturali. Alcune persone dell'aristocrazia romana, soprattutto nobili donne come Paola, Marcella, Asella, Lea ed altre, desiderose di impegnarsi sulla via della perfezione cristiana e di approfondire la loro conoscenza della parola di Dio, lo scelsero come loro guida spirituale e maestro nell'approccio metodico ai testi sacri. Queste nobili donne hanno anche imparato il greco e l'ebraico. Dopo la morte di Papa Damaso, Girolamo lasciò Roma nel 385, intraprese un pellegrinaggio dapprima in Terra Santa, silenziosa testimone della vita terrena di Cristo, poi in Egitto, terra di elezione di molti monaci. E finalmente nel 386 si fermò a Betlemme, dove, per la generosità della nobildonna Paola, furono costruiti un monastero maschile, uno femminile e un ospizio per i pellegrini che si recavano in Terra Santa pensando che Maria e Giuseppe non avevano trovato dove sostare. A Betlemme restò fino alla morte, continuando a svolgere un'intensa attività. Commentò la parola di Dio, difese la fede, opponendosi vigorosamente a varie eresie, esortò i monaci alla perfezione, insegnò la cultura classica e cristiana a giovani allievi, accolse con animo pastorale i pellegrini che visitavano la Terra Santa. Si spense nella sua cella vicino alla Grotta della Natività il 30 settembre dell'anno 419-420. La preparazione letteraria e la vasta erudizione consentirono a Gerolamo la revisione e la traduzione di molti testi biblici, un prezioso lavoro per la Chiesa latina e per la cultura occidentale. Sulla base dei testi originali greco e ebraico, e grazie al confronto con precedenti versioni, egli attuò la revisione dei quattro Vangeli in lingua latina, poi del Salterio e finalmente di gran parte dell'Antico Testamento. Tenendo conto, come ho già detto, dell'originale ebraico e greco, della versione dei 70, la classica versione greca del tempo pre-cristiano dell'Antico Testamento, e delle precedenti versioni latine, Gerolamo, affiancato poi da altri collaboratori, poté offrire una traduzione migliore. Essa costituisce la cosiddetta Vulgata, il testo che è divenuto il testo ufficiale della Chiesa latina, riconosciuto come tale dal Concilio di Trento, e dopo una revisione negli ultimi 10 anni rimane il testo ufficiale latino della Chiesa di lingua latina. È interessante rilevare i criteri a cui il grande biblista si attenne nella sua opera di traduttore. Li rivela egli stesso quando afferma di rispettare perfino l'ordine delle parole delle Sacre Scritture, perché in esse dice: anche l'ordine delle parole è un mistero, ha da fare con la rivelazione. Ribadisce inoltre la necessità di ricorrere ai testi originali e scrive: qualora sorgesse una discussione tra i latini sul Nuovo Testamento per le lezioni discordanti dei manoscritti, ricorriamo all'originale, cioè al testo greco in cui è stato scritto il Nuovo Patto. Allo stesso modo, per l'Antico Testamento, se vi sono divergenze tra i testi greci e latini, ci appelliamo al testo originale, l'ebraico, così tutto quello che scaturisce dalla sorgente lo possiamo ritrovare nei Rugelli. Gerolamo inoltre commentò anche parecchi testi biblici. Per lui i commentari devono offrire molteplici opinioni, scrive, in modo che il lettore aveduto, dopo aver letto le diverse spiegazioni e dopo aver conosciuto molteplici pareri da accettare o da respingere, giudichi quale sia il più attendibile e come un esperto cambia valute, rifiuti la moneta falsa. Gerolamo confutò con energia e vivacità gli eretici che contestavano la tradizione e la fede della Chiesa. Dimostrò anche l'importanza e la validità della letteratura cristiana, ormai degna di essere messa a confronto con quella classica divenuta una vera cultura cristiana. E lo fece componendo il libro di Viris Illustribus, un'opera in cui Gerolamo presenta le biografie di oltre un centinaio di autori cristiani. Scrisse pure biografie di monaci, illustrando accanto ad altri itinerari spirituali anche l'ideale monastico. Inoltre tradusse varie opere di autori greci. E infine, nell'importante epistolario, un capolavoro della letteratura latina, Gerolamo emerge con le sue caratteristiche di uomo colto, di asceta e di guida delle anime. E che cosa possiamo imparare noi da San Gerolamo. Mi sembra soprattutto amare la parola di Dio, amare la parola di Dio nella Sacra Scrittura. Dice San Gerolamo, ignorare le scritture è ignorare Cristo. E perciò è importante vivere in contatto, in dialogo vivo ogni cristiano con la parola di Dio donataci nella Sacra Scrittura. Questo dialogo nostro con la Sacra Scrittura deve sempre avere due dimensioni. Da una parte deve essere un dialogo realmente personale, perché Dio parla con ognuno di noi tramite la Sacra Scrittura e ha un messaggio per ognuno di noi. Dobbiamo leggere la Sacra Scrittura non come parola del passato, ma come parola di Dio che parla anche con me, e cercare di capire cosa il Signore dice a me. Ma per non cadere in un individualismo, dobbiamo tenere presente che la parola di Dio ci è data proprio per costruire comunità, per unirci in questa verità, in questo cammino che è la parola di Dio. E quindi la parola di Dio, pur essendo sempre una parola personale, è sempre una parola che costruisce comunità, che costruisce Chiesa. E perciò dobbiamo leggerla in comunione con la Chiesa viva, il luogo privilegiato della lettura, dell'ascolto della parola di Dio è la liturgia, dove celebrando la parola di Dio e celebrando la presenza del corpo di Cristo tra noi, realmente la parola è viva e parla con noi, diventa presente per la nostra vita. E dobbiamo anche tenere presente che la parola di Dio trascende i tempi. Le opinioni umane vanno e passano. Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. La parola di Dio è parola di vita eterna, porta in sé l'eternità, ciò che vale per sempre. E portando in noi parola di Dio, portiamo in noi l'eterno, la vita eterna. E così concludo con una parola di San Gerolamo a Paolino di Nola, dove esprime proprio questo fatto che nella parola di Dio riceviamo l'eternità, la vita eterna. Dice San Gerolamo, cerchiamo di imparare sulla terra quelle verità la cui consistenza persisterà anche nel cielo e in eterno. Grazie.